Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Di quali oggetti potete fare a meno? Dell'automobile, dell'orologio, del tapis roulant e dell'attrezzatura per fare gli addominali in casa mai utilizzati, della stampante, della stanza d'ingresso nelle case, della penna stilografica e della carta da lettere regalate per la laurea, della grattugia, dello spremiagrumi e del pelapatate elettrici, del cappello, della tessera fedeltà del supermercato e del benzinaio, dei souvenir, delle sigarette ma anche dei sigari e della pipa, dei vestiti alla moda, dei quadri incorniciati appesi alle pareti, dei volumi delle pagine bianche e gialle, di riviste e libri, dell'impianto hi-fi e della collezione di CD, di ammennicoli, pupazzi, sculturine, portafortuna e tutti gli oggetti d'arredamento inutili. Ecco, questo in parte ce l'eravamo già detti qualche giorno fa, parlando delle assurdità compulsive che le persone si tengono in casa. Oggi voglio andare oltre. Vi ho già turlupinato in apertura e in lancio di trasmissione, millantando una fantomatica giornata mondiale della leggerezza. Sarebbe bello che ci fosse veramente una giornata dedicata all'alleggerimento. No, invece le giornate mondiali sono sempre a ricordarci qualcosa di pesante. Anche ammesso che ci fosse una giornata mondiale della felicità, servirebbe per ricordarci le persone infelici. Ma è mai possibile un giorno all'anno, come potrebbe essere ad esempio oggi, mi è venuta questa ispirazione. Ho demolito la scaletta del programma che avevamo pronto su un importante e indispensabile argomento che ci avrebbe illuminato su aspetti innominabili, indicibili, insondabili di uno dei tanti episodi che sta affliggendo l'umanità, e ho deciso no, oggi voglio essere leggero. La giornata mondiale della leggerezza dovrebbe essere la giornata in cui ci guardiamo e pensiamo che in realtà siamo appesantiti in un'infinità di inutili facezie, di inutili orpelli, di cose che non ci servono. Avete sentito un elenco di oggetti. Provate a immaginare quante cose inutili avete intorno di cui potete fare a meno. Io mi guardo intorno, sono circondato da telecamere che non mi servono, non sono mai state accese, da un iPad acceso accanto a me, ma cosa mi serve? Ho due computer davanti, no, sento questa sorta di bisogno, di horror vacui, di avere anche un tablet, non si sa mai, tante volte, si spegnesse il computer numero uno, si spegnesse il computer numero due, ho il mio tablet di riserva, sempre questa ruota di scorta di ogni possibile emergenza. Un orologio inutile, è gigantesco, enorme, pesante, non guardo mai l'ora, che bisogno ho quando la mia giornata già è scadenzata dagli orari altrui, quindi non ho nemmeno il diritto di avere una mia ora, non è la mia ora quella che ho al polso, è l'ora degli altri, quindi via gli orologi. Andando avanti, esiste una sorta di orpelli ancora più pesanti, ancora più indissolubili, dai quali più difficilmente riusciamo a separarci, che sono i nostri ricordi, le nostre nostalgie, il senso profondo di ciò che fu, che ci sembra bello, stupendo, meraviglioso, indimenticabile. E quindi osservo e guardo le nostalgie per i nuovi luoghi nativi, vedo amici e amiche che su Facebook, il più moderno, il più dissoluto e il più fantastico strumento di oblio che può esistere, perché si sovrascrive minuto dopo minuto, diventa uno strumento di immagazzinamento, di concretizzazione di ciò che c'è di più pesante, la propria città d'origine. E si vedono tutti i siciliani, tutti gli abruzzesi, tutti i sardi, ma anche tutti gli umbri probabilmente, magari sparpagliate in varie parti del mondo, che si lanciano ricordini, ricordi quel baretto, ricordi quella panella, ricordi quel soffocotto che facevamo quando eravamo ragazzini. Ecco, esattamente ripassa attraverso l'analisi delle esperienze culinarie e delle facezie infantili il desiderio di qualcosa che in realtà ci sovrasta, ci soffoca, ci appesantisce. Beh, oggi vorrei, e vi elencherò anche altre situazioni, che voi mi aiutaste in questa trasmissione in cui sono totalmente solo. Non ho avuto ospiti, perché anche gli ospiti è un motivo di appesantimento. Bisogna ascoltarli, sentire il loro parere, fare loro domande, stare in silenziosi mentre loro parlano. Pesantissimo. 800 24 00 24, aiutatemi questa mattina e ditemi di cosa potete liberarvi, cosa vi farebbe sentire leggeri, a cominciare anche dalle persone oltre che gli oggetti, anche dalle situazioni, dai ricordi, dagli obblighi, da tutto ciò che ci fa svegliare la mattina e ci fa dire che brutta giornata, non ce la faccio uscire dalla porta di casa. Elogio della leggerezza. Non ho tempo, non ho spazio, mi sento oppressa. Non ho tempo, soprattutto. Non ho mai tempo per fare le cose che devo fare. Non ho tempo per ascoltare le persone che devo ascoltare, per dire le cose che devo dire, per dedicare tempo appunto alle mie cose, a chi mi è caro nella vita vera, quella che inizia alle 8 di sera e termina alle 8 di mattina. Non ho spazio. Non ho spazio per me, per le mie cose, per i miei libri, per la mia famiglia, per le mie passioni. Spesso neanche per i miei pensieri. Non ho spazio in casa. Non ho spazi a sufficienza. Allora butto via. Butto via tutto. Quanto ho di utile e superfluo, caro, banale e prezioso, vecchio e nuovo, piccolo e grande. Mi sento pesante. Vi do le prime reazioni del pubblico che le ho attraverso degli SMS per farvi capire che in realtà la leggerezza è il più grande tabù, è la più indicibile delle eresie. Nessuno vuol sentir parlare di leggerezza perché è come mettere un dito nella piaga più dolorosa che ognuno ha, e quindi ognuno si sente improvvisamente, necessariamente portatore di tutte le angustie dell'umanità, di tutti i problemi, di tutte le complessità, non essendo capace a svolgere e a dissolvere nemmeno quella più personale e individuale, che è il desiderio di sentirsi leggeri. Mi scrive un ascoltatore con fare spiritoso: o signore che tutto puoi, alleggeriscici da Melog e dal suo Origa Nicoletti. È un alleggerimento facilissimo, individuale, che ognuno può fare. Se questo vi angustia, se questo vi opprime, liberatevi da Melog e anche da Nicoletti. Un altro ascoltatore dice, con fare più malizioso: vi assicuro che però non è nella realtà delle cose, perché avevo una pesantissima trasmissione pronta, dover trattare sulla pornografia e i ragazzi, di quanto incida la pornografia sull'aspetto compulsivo, sulla visione distorta della realtà della nostra gioventù. A un certo punto dico: no, questa mattina non mi va di parlare di questa cosa, non la trovo in sintonia, in linea. E mi dice appunto: Nicoletti, oggi non sapevi di che cacchio parlare, ti sei inventato sta minchiata della leggerezza. Ma perché sarebbe una minchiata la leggerezza? Qual è il motivo e lo scopo principale di un essere umano? Sono quello da sentirsi alleggerito, sentirsi leggero. Tutte le metafisiche, tutte le religioni, ma anche tutte le vie etiche, portano verso la felicità dell'uomo, attraverso un cammino di redenzione, un cammino di mortificazione, un cammino di necessaria applicazione di virtù civili, ma comunque tutti mirano alla leggerezza. Perché parlare di leggerezza è un'eresia? Perché dire che uno vorrebbe sentirsi leggero significa vorrebbe sentirsi, non so, magari stupido, magari non capace di comprendere le complessità che stiamo attraversando, non comprendere il momento di crisi, le difficoltà che ci sono, le sentiamo tutte. Ma non è più facile un attimo solo dire: oggi è il giorno in cui vogliamo sentirci leggeri? 800 24 00 24. Carosello, secondo me serviva anche a cementare le famiglie, perché allora all'epoca c'era una televisione sola, non 2, 3, 4 televisioni come succede ora, per cui tutto veniva guardato insieme, la famiglia unita, così come si guardava Rischia Tutto, come si guardava Sanremo, Canzonissima. Buongiorno, volevo dire quanto era bella la televisione 40 anni fa, quando c'era il Carosello che diceva: bambini, tutti a letto. Beato il Carosello di una volta, che rimandava a letto tutti, dai 12 anni ai 15 anni. Volete sapere perché impugno questa mattina il vessillo della leggerezza? Perché viviamo in una società estremamente pesante, appesantita dalla sua incapacità di creare nuovi pensieri, di sovrapporre nuove idee, di dissolvere, pulire, buttare dalla finestra tutto ciò che è passato. Non avendo nuove idee, non avendo nuovi stimoli, non avendo nuovi scorci, nuovi sguardi laterali sulla realtà, si ritirano fuori dagli ammuffiti bauli e quelli che anticamente ci hanno dato qualche palpito, che ancora galleggiano nei nostri ricordi. Leggo oggi come grande notizia del giorno, grande momento di innovazione dell'azienda di servizio pubblico, rilanciano Carosello. Ho visto ieri sera un servizio di Mollica entusiasta, in crisi, in sindrome da Stendhal, di fronte al fatto che ci risarà nuovamente Carosello. Grande idea, riappare Carosello con i suoi siparietti, e improvvisamente viene fuori tutti i vari personaggi, la caffettiera, cosa fai sotto quel sombrero, sto aspettando il merendero, Susanna tutta parte, Capanna, Calimero e Pulcino Nero, orribili appesantimenti che ci ricordano un'epoca scomparsa, che non c'è più, l'epoca dell'incauto ottimismo del dopoguerra in poi, che ci ha portato a quello in cui siamo adesso, un'illusione poter fare una vita che non ci possiamo permettere. E su Carosello si instaura la più pesante delle ipocrisie rispetto al nostro desiderio di essere leggeri. Non è che ritirando fuori Carosello torniamo tutti ragazzini, tutti infanti degli anni 50, coi pantaloncini a mezza coscia e con le scarpe con i lacci e con la giacchettina con la cravatta. No, siamo diversi, siamo un'altra cosa. Quei bambini sono morti, morti per sempre, dobbiamo dimenticarci. Alessandra, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Niente, io mi libererei di me stessa perché riconoscono di essere di una pesantezza. Si butti dalla finestra, Alessandra, cosa devo dirle? Ma libera l'umanità, non se stessa. Libera gli altri della sua pesantezza. Sì, sì, lo farò. Ma lei sente pesante? Ma sì, cioè dovrei fare un trapianto del cervello. Qual è il suo problema, Alessandra? Non mi prenda in giro. Ma mi faccio, mi faccio carico di situazioni a livello appunto mondiale che ovviamente non posso. Cioè, quindi risolvere. Lei è vittima delle sue seghe mentali? Sì. C'è ogni cosa ha un suo termine scientifico per definirlo. Adesso che l'ha capito, però, perché non si libera da questi fastidiosi sensi di colpa verso il mondo, sensi di necessità di dover risolvere i problemi altrui e non prova a sentirsi leggera? Di cosa dovrebbe liberarsi lei per non sentirsi pesante? Ma guardi, si figuri, qua parliamo di pace a livello mondiale. Cioè non ce ne frega niente, dai, vabbè, anche Miss Italia, che grazie a Dio probabilmente qualcuno abolirà, la prima cosa che chiedono queste ragazzine addestrate all'aspirazione profonda che vorrebbero la pace nel mondo. Lei non vuole la pace nel mondo, cosa vuole in realtà? Ma io vorrei la pace universale. Lasciamo perdere questa minchiata. Ma, che non ma guardi che lo dico, no, non è una minchiata, io lo dico sul serio. Poi lei me la può giudicare una minchiata. Sì, vabbè, allora il suo primo problema, si alza la mattina, voglio la pace universale. Pesantissimo concetto, in quanto impossibile, antitetico all'esistenza dell'umanità. Vabbè, il secondo punto qual è oltre la pace universale? Ma la comprensione, riuscire a comunicare. Sì, ma lei personalmente cosa le manca la mattina per sentirsi leggera? No, a me non manca assolutamente niente, semplicemente vorrei potermi trovare a pensare meno a cose alle quali non posso in realtà poi porre alcun rimedio. Ecco. Ad esempio un grande girotondo di tutti che si vogliono bene, bianchi, gialli, neri, rossi, intorno al mondo. Ma lei lo vede come un girotondo, io invece neanche si voglia. Allora, volersi bene è un'utopia. Sì, ma stiamo radicalizzando l'astrazione. La leggerezza è concreta, non è astratta. È liberarsi di ciò che ci appesantisce, come fossero oggetti. Cosa butterebbe dalla finestra? La giro così. Cosa butterei? Il televisore. Non ce l'ha. No, già non ce l'ho. No, lei ha ragione, Alessandra. Lei è veramente in maniera irrimediabilmente pesante. Mi dispiace per chi le sta accanto. Riccardo. Sì, buongiorno. Vediamo se lei riesce. Noi ci siamo liberati già di Alessandra, la prima operazione di alleggerimento l'abbiamo fatta. Vediamo se lei ci aiuta a buttare via qualcos'altro dalla finestra. Dunque, io mi sono liberato. Lo sa, perché non c'è di peggio del pesante consapevole, compulsivo, dice io sono pesante. È come la persona che gli puzzano le estremità, che lo dice, sai, scusa, mi puzzano i piedi, e ti sta vicino apposta. Scompari, la cosa migliore. Prego, Riccardo. Dunque, io mi sono liberato con grande gioia e serenità di Facebook e il social network in generale. Vabbè, è una strada. Nel senso che c'erano tante persone, ovviamente, che mostravano la loro vita lì, sostanzialmente si vive lì, si perde un po' il contatto con la realtà e alla fin fine poi, a conti fatti, quando veramente è servito qualcuno vicino, hanno telefonato le solite quattro persone che non stanno su Facebook. In più, risultato ancora più positivo, utilizzo meno il telefono perché lo uso solo per chiamare e non per vedere ogni 4 minuti i fatti degli altri, stesso dicasi per il computer, quindi sostanzialmente riportare quei due oggetti elettronici alla loro vera funzione. Lei perché ha un senso di ripulsa verso la tecnologia o ha capito che in fondo si vive bene anche evitando il conteggio delle migliaia di amici incorpori e probabilmente meglio averne un po' concrete? Esattamente questo, la tecnologia ha un suo senso e va usata, però per ciò per cui è fatta. Non troviamoci sempre un'ulteriore funzione che è quella di far sentire sempre tutti uniti, felici e allegri, quando poi la metà delle persone si odia o fa finta, insomma, semplicemente di avere una buona relazione online. questo vabbè, si è liberato dalla necessità di essere multitask e questo è qualcosa. Mi scrivono qualche sms, che è la forma più diretta e probabilmente più sincera di espressione, anche se molte volte rude, persone che mi dicono realmente, concretamente, cosa per loro significherebbe essere leggeri. Se volessi essere più leggera, mi libererei della mia famiglia, marito, due figli, più cane e gatto. Ma forse lo scopo trascende, come dicono la maggior parte delle religioni, ma non ho capito cos'altro vuol dire. Va cominciato bene, Lisa, ma finisce così. Un'altra persona: vorrei liberarmi dei parenti per sentirmi leggera. Gli amici me li sceglierei, i parenti no. Mi libererei volentieri del cellulare. Questo già è qualcosa, dei mille impegni che ogni giorno, senza aver poi nulla da fare realmente di importante. A quello che a mio parere è l'aspetto che appesantisce in maniera quasi mortale i nostri tempi, l'autoreferenzialità. Non bisognerebbe concentrarsi sulla necessità di essere accettati dagli altri. Anche questa probabilmente è una via. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ci può dare una lezione? Sì, una lezione. Secondo me c'è un'esperienza che può aiutare tutti a liberarsi sia fisicamente degli oggetti, sia moralmente di alcuni blocchi che abbiamo psicologici anche nelle relazioni. Io ho vissuto 2 anni viaggiando intorno al mondo con il solo contenuto di uno zaino. Cioè lei aveva quei 15-20 kg, era tutta la sua vita? Facciamo anche 10-11. 10-11, ma nemmeno due paia di scarpe. No, neanche 2 paia di scarpe, perché non servono. Quando si rompe una ne compri un'altra. È interessante questo. Lei pensa che noi abbiamo il cambio di stagione, ogni anno ritiriamo fuori dai contenitori le scarpe dell'anno prima, che sono sempre troppe, non abbiamo mai il coraggio di buttarle via. In questi momenti di crisi pensaci, sì, ma devo continuare a tenermi delle cose dentro casa. Se gli armadi fossero vuoti, se le case non avessero mobilio, se entrassimo a casa e avessimo soltanto le cose che abbiamo indosso, probabilmente ci sentiremmo più leggeri, ma forse ci arriveremo senza che sia una nostra scelta. E poi lei come ha passato questi 2 anni? Li ho passati viaggiando, e quindi, a parte che materialmente, vivendo di 2 magliette, 2 paia di pantaloni, quando sporco uno si lava via. Era un problema, diciamo, di budget, voleva risparmiare, era proprio una scelta di vita. È proprio anche una scelta, non è una questione di budget. Io a casa avevo tutte le magliette che volevo. Io attualmente probabilmente ancora in un qualche sacchetto sepolto da qualche parte, tante magliette, tanti maglioni, quello che è, però non servono, non sono necessari per la vita di tutti i giorni, e sono solo una preoccupazione in più. Io non compro un capo d'abbigliamento da 6 anni probabilmente. E questo le pesa, cioè non sarà adeguato ai canoni estetici correnti, quindi avrà magari dei pantaloni leggermente demodé o una camicia che non è proprio... Sì, è l'ultima moda sicuramente. Però vive lo stesso. Sì, si vive lo stesso, si vive bene. E poi incontrando le persone... Senta, perché però è tornato a casa, Paolo? Perché è tornato a casa? Stava talmente bene, brado per il mondo, questa leggerezza anomala. Perché bisogna chiudere il cerchio prima o poi se ne riprenderà un altro, spero breve. Quindi però adesso si è appesantito, ha ritirato la zavorra a bordo? Un pochino, ma non più di tanto, diciamo che ho allargato a 4-5 dove prima ero a 2. Grazie Paolo. Miriam, buongiorno. Salve, buongiorno. Vediamo, lei sta dicendo una cosa fondamentale e dolorosissima per molte donne. Sì, penso proprio di sì, ed è una cosa di cui mi sono resa conto per un problema fisico che mi ha imposto di dover abbandonare la mia borsa. Non è una borsetta ormai, è diventata una valigia portatile dove dentro c'è di tutto, dalla casa al lavoro, le cose della famiglia, della spesa, le carte. E ha capito che non le serviva tutto? Ma non è che ho capito, che siccome ho avuto un piccolo problema fisico ho dovuto per forza di cose abbandonarla. Cioè, il momento che si spezzava la schiena ha detto porto troppa roba dietro. Sì, no, ho fatto più un piccolo intervento, a quel punto mi sono dovuta mettere al collo un borsello e lì ci ho messo l'essenziale e ho scoperto che si può vivere senza le chiavi della terrazza condominiale che mi porto dietro perché, oppure i Kleenex, che voglio dire, mi serve, me lo compro. Beh, Kleenex, certo, se fanno starnuto, però dopo come si pulisce, con il risvolto della camicia? Sì, ma se cominciamo a dare appunto priorità a tutte queste... Ma anch'io ho votato lo zaino stamattina, c'avevo la mucchina, cioè 2000 cose che non so cosa farci. Di tutto, ma poi io penso che abbia rappresentato in quel momento, mi sono sentita leggerissima, ho cominciato a camminare con le mani libere, ho detto ma esiste un'altra vita, perché ho sempre questo fardello con dentro il mondo, cioè non penso che sia soltanto il discorso dei Kleenex, in realtà c'è il mondo, l'ha detto. È un senso di insicurezza, dobbiamo avercela in tutto il mondo, l'impressione è girare come una tartaruga, che abbiamo tutto sulla nostra schiena, la nostra casa, la nostra vita, simbolicamente essere rappresentata del contenuto della nostra borsa. Mi scrive un ascoltatore, se voglio essere leggero, pensate che spiritoso, scrivo una lettera di raccomandazione fasulla spacciandomi per parente un altro prelato. Che ne pensa Nicoletti? Fa parte della mia biografia, l'ho più volte scritto, riscritto, trascritto, ne vado molto fiero di aver sfondato la barriera invalicabile dell'azienda di servizio pubblico dicendo che era nipote di un arcivescovo, lo feci per facezia, lo presero sul serio e mi cominciarono a far lavorare e oggi sono qua. Quello fu un atto di grande, estrema leggerezza. Sberleffo totale verso qualcosa che era incommensurabile per la mia visione della vita di piccolo, insulso e squallido provinciale. Melog, la realtà condivisa. .800240024, vedo che sono preso la lettera, sto leggendo qualche messaggio. La maggior parte delle persone vorrebbe liberarsi dell'orologio. Sì, l'orologio che ormai ha un po' smesso di essere uno status symbol necessario, proprio perché se ti porti un bel Rolex d'oro è più facile che ti taglino il polso, piuttosto che ti dicano che bello orologio, fammelo vedere. E quindi l'orologio è la prima oggetto apparentemente inutile di cui la gente vorrebbe liberarsi. Questo significa liberarsi dall'imperio del tempo, della fretta, della sovrapposizione dei tempi impossibili a conciliare tra loro. Qualcuno vorrebbe liberarsi del denaro, del suo potere psicologico e concettuale. Molti vogliono buttare via la televisione, ormai non ha più senso. È come liberarsi di un'ornetta cineraria con le ceneri del nonno. Conviene lasciarla lì, è un bel soprammobile, non serve più a nulla, non passa più nulla di reale al suo interno, ammesso che mai ci sia passato dentro. Nicoletti oggi mi ha convinto. Vado a casa e mi libero di tutte le cose inutili, e sono proprio tante, le porto alla Caritas, va bene, così accontenterà qualcuno che ne ha bisogno, butto via quello che non uso da 2 anni, altre persone che si vogliono liberare, questa bella, dei pensieri altrui, si è persa l'abitudine di scaricare sugli altri le nostre insicurezze, si è presa l'abitudine di scaricare sugli altri le nostre insicurezze, i nostri fardelli interiori, è vero, ognuno pensa, immagina che il vicino di casa, il parente, l'amico, il collega, il fidanzato, l'amante sia una sorta di confessore psicanalista e ti butta addosso una cariolata di insicurezze che vanno a stratificarsi sulle tue e quindi aprono una voragine nel tuo stomaco che lentamente si buca, si fora come se fosse un'ulcera. Simone, buongiorno. Buongiorno. Come ha trovato? Allora, la legge. Ho trovato la leggerezza mentale attraverso la pesantezza del lavoro fisico. Attualmente sto facendo il manovale / contadino. Una buona idea. E niente, devo dire una cosa, che alla fine della giornata, quando le endorfine circolano libere nel corpo, e assistere allo spettacolo di un tramonto diventa un'esperienza sublime. Cosa faceva prima di fare l'operaio contadino? Che faceva, Simone? Guardi, io ho lavorato nel settore informatico. Ah. E nella speranza, sto lavorando per fare un agriturismo e spero che la cosa mi porti i soldi, perché ahimè una delle condizioni necessarie per avere la leggerezza e avere anche i soldi. Lei ha detto una cosa sacrosanta, Simone, non ci prendiamo in giro. Uno può sentirsi leggero se non ha problemi di ordine pratico, o se no è un santo, un asceta, un mistico, un folle, sente leggero pur nella disgrazia della propria assoluta miseria e povertà, ma è difficile, non abbiamo mai visto una persona povera e miserabile veramente felice, a meno che appunto non sia una persona attraversata dalla grazia di un mistico. In effetti sì, il primo problema sarebbe avere un giusto equilibrio tra i propri bisogni e il proprio potere d'acquisto. Se mi accontento di quello che ho, sono felice di quello che ho, non mi guardo intorno, posso essere leggero, ma se mi manca anche l'indispensabile, se non riesco nemmeno a avere il piacere di potermi comprare una cosa che mi piace, seppur minima, seppur futile, è difficile sentirsi leggeri. Questo è un gran lavoro. Marina. Buongiorno, io sono molto terra terra, io vorrei semplicemente perdere i chili di troppo e mi sentirei tanto, tanto più leggera. Ma perché lei sente obesa, è grassa, cosa c'è? Sono obesa, però senta, io ho 60 anni, sono alto 1,60 m e fino a 2-3 anni fa avevo la taglia 42, felice come una Pasqua. Mi perdoni i miei discorsi terra-terra. Lei dice quello che la opprime lei, se lei opprime un po' di grasso superfluo è giusto che lo dica. Ecco, e adesso ho la taglia 46 e a stento ci entro. Beh, cioè dalla 42 alla 46 in pochi anni? Anni. E beh, che è successo in questi anni? Che ne so, è lì il problema. Cioè, ha mangiato come un maiale oppure... No, assolutamente no, assolutamente no. E allora avrà qualche, non so, problema di metabolismo, non sono un medico. Si rivolga a Nicoletta Carbone, che ha una trasmissione specifica sul benessere, ecco. Può darle una mano, non so. Ma il problema qual è? Che non entro più negli abiti che avevo. Beh, è strano che quattro taglie, non è che... E mio marito, con la scusa della crisi, non me ne vuole comprare, quindi capisce che per me diventa una questione abbastanza... Quindi o gira nuda o se ne sta chiusa a casa? Non sarei un bello spettacolo, guardi, alla mia età. Adesso non ci rovini la mattinata di primavera, non ci metta visioni... No. Sennò ci appesantisce. Il suo problema, lei vorrebbe dimagrire, questo è il problema. Ecco, tutto lì, problemi ce ne sono. Cambi marito, trovi un signore che viene dal Nord Africa che dirà che lei è bellissima soltanto perché è abbondante. Sa che è un'idea? Ma sa che è un'idea? Caspita! È pieno di egiziani, di marocchini, non sognano altro che donne corpulente nel tripudio della carne, perché deve stare con un uomo che pensa che lei sia troppo grassa. Prendano di quelli, avrà anche delle soddisfazioni maggiori, immagino. Ha ragione, guardi, prenderò... Qui lei, per sentirsi leggera, se ne va adesso in un bel negozio di kebab, con l'unico abito che ancora può mettersi addosso, ordina il kebab, fa gli occhi dolci al signore che glielo serve, vedrà che la servirà in tutti i sensi. Grazie. Paolo? Pronto? Sì, pronto? L'ascolto. Salve. Nulla, io volevo dire che in questo ultimo mese ho avuto delle vicende che mi hanno fatto rischiare la vita. Ma in che senso? Intervento. Tipo clinico, diciamo. Sì, di tipo clinico. Poteva fare anche lei il serial killer, l'agente segreto. No. E nulla, l'ho preso un po' come un punto di partenza, in quanto mi sono accorto che io sono un piccolo imprenditore e la situazione chiaramente attuale non è... Poi di fronte al problema di salute dice, ma chi se ne importa? Sì, finché c'è vita c'è speranza. Sì. Bravissimo. No, questa è un'ottima lezione, lo sa, perché adesso a me dispiace un po' ci sia questo senso generale di morte, di fine totale, di totale impossibilità di trovare una via, e c'è questo elenco interminabile, persone si tolgono la vita, tristissimo, atroce, crudele. Che più se ne parla, secondo me, e più si dà l'idea che questa è l'unica maniera per uscirne, che poi non se ne esce. L'unica soluzione. Ma quando poi ti vedi... Io penso che uccidersi non sia mai una soluzione. Assolutamente. Sinceramente, assolutamente. Non si risolve che il problema agli altri, probabilmente, che non hanno più il peso della nostra presenza. Non lo so, ma non voglio in questo... Mai darò lezione a nessuno, mai dirò a nessuno che fare della propria vita, in nessun modo. Quindi lei però, che ha toccato un momento cruciale... E cos'è che ha riconquistato di cui... Ho riconquistato il valore delle persone che ti possono stare vicino. A trovarne, però, non è così facile. Ma basta una che ti dica che si preoccupa del fatto che tu stai rischiando la vita. A me ha dato la sensazione che è l'unica cosa... Quindi ha scoperto una persona che ci tiene a lei e quindi questo le appaga, il suo universo. Ho riscoperto che penso valore. Sia sua moglie, penso, qualcosa del genere. Bravissimo, e le mie figlie, sì. Vabbè, sì. E poi molta altra gente, ma è il fatto del valore dell'affetto sopra ogni altra cosa. Però, Paolo, dice una cosa che in effetti non è da me dirlo, sennò sembra che il prossimo passo sarà andare a Medjugorje come Paolo Brosio, ma non ho assolutamente questa intenzione. Però è vero, quando si è sfiorati da situazioni paradossali, improvvise, può essere una malattia come nel suo caso, può essere un improvviso capovolgimento della propria vita, trovarsi dalle stelle alle stalle in un momento, si fa il conto delle persone per cui vale la pena veramente di esistere o che esistano per te. Di solito sono molto poche, sono quelle più inimmaginabili, nel suo caso le persone che le stanno vicino, sulle quali non aveva fatto evidentemente un così forte investimento. Luca, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. L'ascolto. Volevo Sì, volevo raccontare semplicemente la mia esperienza. Io ho adottato un bambino in Africa, in Burundi. Sono tornato 2 mesi fa e sto vivendo questa splendida esperienza. E mi è servita moltissimo ad alleggerire la mia vita in tutti i sensi, la mia e quella di mia moglie. E abbiamo fatto pulizie in casa, ma anche nella nostra vita. E ci siamo resi conto che potevamo vivere con... Mi spiega la prima parte, pulizia in casa cosa significa? Togliere cose per far spazio a un nuovo componente della famiglia? Al di là di questo, proprio togliere oggetti che non ci permettevano di vivere la casa in modo assoluto, ma anche i vestiti. Noi in realtà siamo stati oltre un mese in Africa e abbiamo vissuto con un pantalone e una maglietta. Farlo qui da noi è un po' più difficile. Al terzo giorno è un po' più difficile. Ci guardano già male. Io sono avvocato, sarebbe impossibile andare per me in tribunale in maglietta. Beh, può nascondere tutto sotto un'ampia toga e sotto starsene sempre. Assolutamente. Nessuno se ne accorgerebbe. Però è stata un'esperienza straordinaria. Mi è servito a ridimensionare tutte quelle cose che prima potevano sembrare importanti e che in realtà non lo sono. In realtà una può sembrare una banalità, ma si può vivere anche con 200 minuti al mese sul cellulare anziché un tempo illimitato di minuti, e questo ti dà l'opportunità di dare più spazio alle cose più importanti. Ecco, volevo semplicemente... Grazie Luca, leggo un sms prima di dare la linea al traffico. Se potessi mi sbarazzerei dei tanti paraculi, finti moralisti, elargitori di buoni consigli a buon mercato. Che palle, non se ne può più. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, stiamo questa mattina cercando di definire cosa noi darebbe il sollievo di sentirsi leggeri, liberarsi dei ricordi, liberarsi dei vincoli inutili, liberarsi di tanti oggetti, liberarsi di tante necessità, liberarsi di tante ansie. Sì, a parole sembra facile, ma in realtà questi sono nostri gemelli siamesi indissolubili, dai quali non ci possiamo mai separare. È estremamente difficile, però esprimere almeno il desiderio di potersi liberare, anche se per pochi e fuggevoli attimi, ci dà un senso di profonda leggerezza. Quindi vi prego, questa mattina 800240024, fate come stanno facendo già molti vostri colleghi ascoltatori, liberatevi almeno come desiderio impossibile di ciò che vi opprime. Sentitevi leggeri in questa che ho proclamato giornata internazionale della leggerezza. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Volevo dire che io in età adolescenziale ho avuto un rapporto conflittuale con l'orologio, di cui mi sono liberato, diciamo, quasi subito, perché le spiego. Prendevo diverse note alle scuole medie perché c'era una insegnante italiano che era di una noia mortale e continuava a guardare l'orologio. Da allora che finisse la lezione? Da allora finisse la lezione. No, perché a scuola l'orologio è praticamente inutile, suona la campanella, c'è una scansione coatta del tempo e quindi c'è poco da fare. Io, se adesso ho bisogno di guardare l'ora, la guardo nel display del cellulare. Ma che cambia? Sempre qualcosa che segna il tempo. Sì, ma non è sul polso. Cambia il supporto. Ah beh, quindi ci vuole più tempo, bisogna tirarlo fuori, quindi dice... Sì, ma non è una... viene meno all'occhio, mi creda. E tra l'altro, quando mi sono laureato, mio padre voleva regalarmi un orologio, un bel orologio, e ho detto: guarda, non me ne faccio nulla perché io odio gli orologi. Tutti gli amici lo sanno, se vogliono farmi un bel regalo sanno che non devono regalarmi un orologio. Quindi lei concretizza quella che era la tendenza più diffusa questa mattina, l'imperio del tempo. Poi l'orologio è quello che simbolicamente scandisce la nostra limitata e parziale visione dell'assoluto, che è scansionato, diviso in tempo, in prima e dopo, in da fare già fatto, in oggi e domani. Senza orologio c'è l'illusione che tutto questo non conti, ma in realtà conta. Non possiamo fare a meno oggi di guardare l'orologio, perché in realtà è tutto un orologio concreto attorno a noi: il passaggio degli autobus e dei tram a una certa ora, la necessità di entrare e uscire in certi luoghi in certe ore, le macchine con cui lavoriamo, che ogni macchina di lavoro, di trastullo, di passatempo, di necessità comunque di applicazione o di relazione, ha un orologio in sé. Ogni messaggio che ci arriva è segnato dal tempo, oltre che dal luogo in cui è stato pensato e formulato e immaginato. Esiste un continuo prima e dopo nella nostra giornata. L'orologio una volta miseramente serviva soltanto per arrivare in tempo agli appuntamenti, oggi è un po' diverso. Paolo, buongiorno. Pronto? Sì. E salve. Cosa butterebbe lei per sentirsi leggero? Io vorrei togliermi l'immagine di me stesso. stesso e della mia attività politica e sindacale. Oggi, questo è molto attuale, mi faccia capire. Perché in pratica sono 20 anni che faccio attività politica, sindacale, faccio anche un lavoro che va in contraddizione con quello che voglio essere, che è la leggerezza, e sono anche un montatore audio e video di programmi televisivi dove modifico... Lei quindi l'immagine. è rappresentante sindacale della sua categoria nel luogo dove lavora? Sì, soprattutto dove anche lei ha lavorato. Sì, ho capito, sta parlando di una delle cose più pesanti, arretrate, ipocrite e spartitrici di potere che esiste. Sono in una contraddizione assurda, perché faccio anche un mestiere che modifico l'immagine anche come un incidente, un fatto grave, un attentato in cui non si deve vedere ma si deve vedere, non si deve far vedere ma si deve far capire. Vabbè, perché lavora in un luogo che è la confessione dell'ipocrisia, perché in realtà non è in assoluto così. Il montatore deve far vedere il più possibile, far capire il più possibile, senza indugiare naturalmente sul mondo. Bisogna dire e non dire. Non dire, questa cosa è dopo tanti anni. A me piace moltissimo il mio mestiere. Faccio anche sindacalista di un certo tipo, onesto, leader, molto, molto calmo. E non ha fatto carriera, di solito hanno fatto tutti carriere sindacalisti in quel luogo. Bravo, e io non ho fatto mai carriera proprio per questa cosa, ma non perché vorrei diventare uno come tanti, ma perché questa situazione qua mi ha logorato veramente tanto. Quindi lei è praticamente un uomo finito? Ma non è finito. Allora cominciamo a capire. Di cosa si dovrebbe liberare? Però, se lei in questo momento avesse facoltà e possibilità... Vorrei liberarmi dell'ipocrisia e poter dire alla gente quello che penso realmente, non essere diplomatico. Ecco, se lo fa perde il lavoro, però lo può ancora peggio. E se lo faccio anche come rappresentante perdo anche il consenso. Questo è il più grande problema. Quindi diciamo che è una macerazione... La capisco perfettamente. Non mi va di dare ulteriori indicazioni, ma so perfettamente, conosco il tipo, la sto allucinando in questo momento, i colleghi che si trombano tutte le colleghe perché il fatto che loro hanno un potere maggiore all'interno degli altri, che non riescono a fare una mazza perché sono i sindacalisti, che in realtà hanno un potere formidabile e sono intoccabili, che poi in realtà alla fine ci si rende conto che lo usano soltanto per loro personale vantaggio, si fanno delle lotte per mantenere uno status aziendale che in realtà porta irragionevolmente verso un'uscita totale dal mercato, ma bisogna tenere la posizione e ci si rende conto, perché lei è anche un professionista, in realtà questo va contro la ragionevolezza, ma la ragionevolezza è qualcosa che assomiglia molto alla leggerezza e non si può essere ragionevoli. Graziella. Buongiorno. Io ho un problema, non riesco a eliminare le cose inutili, sono una collezionista incallita, come si dice, colleziono tutto. Ed è un problema che a volte dico butto via, regalo, porto in parrocchia, vendo. Non è una acquistatrice compulsiva. Bravissima. E spendo pochissimo, anzi direi poco e niente, perché mi danno tutto, miei amici, conoscenti che sanno che cosa mi piace. E ogni tanto compro delle cosine, ma 50 centesimi ai mercatini, al massimo un euro proprio. Però a volte dico devo liberare e poi dico ma questo è bellissimo. E questo accumula tutto dentro casa? Un po' dentro casa, un po' in grandi scatole in cantina, un po' in tante scatole nel box, di tutto. Beh, diciamo che l'esito della sua esistenza sarà di finire in quei fantastici programmi televisivi tipo Case da Incubo, quelle signore sopraffatte dalla spazzatura e dagli oggetti che si rifiutano di liberarsene, poi devono venire delle squadre specializzate di facchini, pulitori e psicologi, psichiatri, devono convincerla a buttare via tutto, quindi lei finirà sommersa dalle nefandezze che accumula, penso, probabilmente, lo sa questo? Ma ho i buoni propositi, adesso incomincio a eliminare, prendo una scatola, apro, dico questo è bello, questo mi piace, questo me l'ha regalato. Vabbè, rimarrà schiava degli oggetti e dal suo desiderio rimanere ancorata degli oggetti, lasci un testamento che come i faraoni nella tomba le mettano tutti gli oggettini che lei colleziona ogni giorno, avrà questa sorta di conforto. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Vada al punto che manca poco tempo e voglio sentire... Ecco, ascolti, volevo, sentendo quel signore che ha parlato sì. poco tempo fa di una maglietta e un pantalone che bastavano così. Che vuol fare? Già in una fiaba di Tolstoi, già questo sì. lo diceva, menzionando quella fiaba del re e la camicia. Ah, qual era? Era questo, se ho tempo è sì, corta. Sì, certo, allora, sì. Un re era ammalato e così proclamò: dalla metà del mio regno chi mi guarirà? Si riunirono i dotti per discutere la Sono molto grato, Elisabetta, che mi ha dato modo di usare la motosega, che è il più grande strumento di leggerezza, di sfrondamento, di potatura, di tutto ciò che ci opprime e ci impedisce di crescere come alberi. A domani.